Effetto Mondo. This is the one that he cannot dismiss as someone who is a coffee boy, a low-level employee. Eccoci qua con Giulia Crivelli. Chiedo scusa, abbiamo rubato un minuto e mezzo abbondante alle notizie, ai giornali internazionali, ma il professor Buonanno chiedeva un po' di tempo. Giulia, benvenuta. Sì, buongiorno. Questa era la voce di Emily Jane Fox, che è la corrispondente della Casa Bianca per Vanity Fair America, e commentava questo libro che avrebbe dovuto uscire il 14 di luglio, invece esce oggi ed è scritto dalla nipote di Trump, la figlia di suo fratello maggiore, che è morto nel 1981 a 42 anni per le conseguenze del suo alcolismo. Lei ha 55 anni, il libro si chiama Too Much and Never Enough, troppo ma mai abbastanza, e How My Family Created the World's Most Dangerous Man, come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo. E in questo brevissimo estratto questa giornalista diceva: sono usciti tanti libri, abbiamo parlato quello di John Bolton, ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, anche quel libro la Casa Bianca aveva cercato di bloccarne l'uscita. Questo però, dice Emily Jane Fox, è veramente pericoloso, perché non è il libro di un coffee boy, che è il ragazzo che porta il caffè, cioè di una persona che ha avuto a che fare con Trump in modo molto superficiale. Questo è il libro di sua nipote, che tra l'altro appunto è una psicologa clinica, ha un PhD in psicologia, e quindi insomma è credibile. È dal 2017, ne parlano diffusamente il New York Times e il Washington Post, che Mary Trump viene sollecitata dalla stampa a esprimersi sulla figura dello zio, ha sempre un po' rifiutato. Adesso esce questo libro, anche questo appunto è stato oggetto di un tentativo di blocco da parte della Casa Bianca, e vedremo insomma se avrà delle conseguenze. Il tema qui, più che in quello di Bolton, dove si parla proprio dell'operato di Donald Trump come presidente, è il suo profilo appunto psicologico, più umano. Lei dice non ha anche una personalità che gli fa negare qualsiasi problema, e quindi non avremo mai l'opportunità di un parere, diciamo, obiettivo. Lei stessa dice: il mio tutto sommato è il parere di una persona, di una sua parente, però non possiamo sperare che si sottoponga all'esame di uno psicologo. E questo è un po' appunto, ne parlano quasi tutti i quotidiani, perché è un po' l'ennesima grana per Donald Trump. Trump in primo piano sui giornali internazionali, Giulia, anche per la decisione di uscire dall'OMS, ventilata decisione di uscire dall'OMS. Sì, sappiamo che nelle settimane scorse aveva molto criticato l'OMS, ha continuato nei suoi comizi a parlare di Chinese virus, Kung flu, perché dice che l'OMS ha sempre, insomma, ha reso troppo facile la vita alla Cina, quindi aveva minacciato di lasciare l'OMS. Ieri ha mandato la comunicazione ufficiale al Congresso, quindi adesso è ufficiale, gli Stati Uniti non faranno più parte dell'OMS, e naturalmente si verranno interrotti anche i finanziamenti. Gli Stati Uniti erano il primo finanziatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo naturalmente, unito al fatto che il Covid negli Stati Uniti continua a essere un problema enorme, conquista le prime pagine dei giornali, insieme poi ad alcuni dati economici. Sul Wall Street Journal si parla di queste commissioni che le banche potranno chiedere per tutto il ruolo che avranno nel concedere i prestiti straordinari legati all'emergenza Covid. Per le banche sarà insomma un buon affare. D'altro canto perderanno moltissimo, perché ci sono tutte le insolvenze sempre legate al Covid, quindi comunque insomma per le banche è uno scenario complesso e pieno di incognite. Questa è sulla prima pagina del Wall Street Journal. C'è anche Bolsonaro in vetta, no? Ai giornali, anche sul Financial Times. Con che Bolsonaro, parole? Guarda, come possiamo immaginare, ha conquistato anche le prime pagine dei giornali italiani. La notizia è quella che è risultato positivo al virus, poi vedremo se ci saranno bollettini ufficiali sul suo decorso medico, e naturalmente su tutti i quotidiani brasiliani, su quelli argentini, che sono uno dei paesi più naturalmente che guardano con più preoccupazione al Brasile, ci sono le sue foto, e quasi tutti usano dei dei titoli un po' ironici, perché lui ha sempre parlato di influenzina, grippesigna, la una piccola grippesina, sì. influenza, e insomma ha dovuto ammettere lui stesso che ha avuto 38 di febbre, una saturazione del 96% di ossigeno, che è sicuramente molto bassa, però appunto sta prendendo l'idrossiclorochina, quella che anche Trump aveva detto di prendere, che è un antimalarico. Vedremo insomma se nei prossimi giorni la sua salute migliorerà, come credo tutti sperano, o viceversa avrà bisogno di cure o di ospedalizzazione. Questo si chiedono poi i giornali brasiliani, perché il tema è appunto, lui è comunque il presidente, ha annullato una serie di impegni, però insomma, stiamo a vedere. Ecco, non c'è stata totale trasparenza nei mesi scorsi. Sappiamo che Bolsonaro, lo sottolineano tutti i giornali, ha licenziato due ministri della salute negli ultimi 3 mesi, quindi insomma adesso è un po', naturalmente diventa ancora più delicata la vicenda. Giulia, la Gran Bretagna per il rilancio si affida all'azzeramento delle tasse sulla casa, è giusto? È così? Per le compravendite di case che siano sotto i 500.000, le 500.000 sterline, quindi circa 600.000 euro, è un risparmio medio di 15.000 sterline. E poi per oggi è atteso anche un altro annuncio del cancelliere dello scacchiere, equivalente del nostro ministro delle finanze, che dovrebbe concretizzare questo piano per l'occupazione degli under 25. Dovrebbero essere stanziati 2 miliardi di sterline per sostanzialmente offrire sgravi fiscali quasi completi ai datori di lavoro che assumono appunto degli under 25, impegnandosi a dare loro un percorso di formazione molto concreto, molto, molto vero, insomma, non semplicemente assumerli sotto l'etichetta stagista e poi magari fargli fare cose che non fanno curriculum, non danno loro un'esperienza, non danno loro basi per il futuro. Vogliamo chiudere con la Francia in pochi secondi, i commenti credo sul nuovo governo, no? Il De Un Castel. governo che è molto a destra, molto criticato anche dalle femministe per le posizioni espresse da alcuni ministri, e il tema è che sono spariti i macronisti della prima ora, scrive Le Figaro. Quindi la svolta a destra c'è stata, e Macron ha sostanzialmente un anno per lasciare un segno nella politica francese, ovviamente nell'economia soprattutto, e avere una chance per la rielezione per un prossimo quinquennato. Grazie Giulia Crivelli, appuntamento a domani per la puntata di oggi. È tutto con Valeria Bernardi regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao, buona giornata.